Allora, stiamo ridendo tutti, io rido in studio, Carmelo ride in regia, Christian, che cura, come sapete, la redazione di questo programma, non conosceva questa canzone di Elio e le Storie Tese, anche se si firmavano, credo, il gruppo misterioso, il complesso misterioso, non mi ricordo, che si intitolava Christmas with the Yours. Oh, scusate, ho fatto rumore col microfono, è colpa mia se l'avete sentito. Christmas with the Yours, Easter what you want, ovviamente, nello stile quello di Elio e le Storie Tese, e diceva: panettone is on the table and everybody's drinking Moscato. Il panettone è sul tavolo e tutti stanno bevendo Moscato. Chissà se intanto il nostro gastronauta apprezza l'abbinamento panettone e Moscato. Ciao Davide! Sì. Ciao, buongiorno, lo apprezzo, e come devo dire che è una grande sorpresa. Io non la conoscevo questa canzone. Ah, non conoscevo. Per me è straordinaria. On the table bisognerebbe cominciare quando, diciamo, i ragazzini vanno a imparare l'inglese. Questa potrebbe essere la prima frase: panettone is on the table, secondo me sarebbe prima di iniziare a parlare appunto di panettone, ti dico che io sono chiuso in una gastronomia a Pistoia, mi sono fatto chiudere qui dentro perché c'è silenzio, sono di fronte a tutti i prodotti migliori italiani artigianali, ho di fronte un panettone artigianale e poi anche il pan briacone, addirittura, che è una forma di, è un panettone particolare di un'area della Toscana che avviene a Natale. Però fammi rispondere anche a questo, devo dire che questa bottega si chiama la Bottega Gaia, quindi tutto attaccato giocando su Botte Gaia, quindi è veramente anche una finezza anche questa. Ma no, voglio rispondere a quel radioascoltatore cattivo, digli che non io non i cattivi li bacchetto subito, ormai sono diventata cattiva anch'io. È cattivo, ma divento cattivo anch'io. Io il panettone lo mangio da agosto e quindi è giusto che oggi parli di panettone perché ci avviciniamo, ma non sono in anticipo, anzi sono in posticipo perché ho cominciato ad agosto a mangiare il panettone, anche se riconosco che il Natale per molti, per tanti, è il momento clou del panettone. Magari c'è qualcuno che non fa Natale senza panettoni, io questo lo riconosco, non sono un dissacratore, dico che si può mangiare tutto l'anno, però in una bella tavola un panettone da 3 kg il giorno di Natale sulla tavola, secondo me, is on the table, il panettone, secondo me è fantastico, una bottiglia di Moscato, come dice Elio e le Storie Tese, è fantastico, Moscato. Tra l'altro i moscati, ecco, mi permetto anche di dire questo, visto che ci avviciniamo al Natale e certi vini dolci da accompagnare ai dolciumi, alle torte, al panettone, a tanti altri, sono poco conosciuti i moscati. Noi abbiamo in Italia una varietà di moscati incredibili, che sono secchi ma ce ne sono anche moltissimi dolci in molte regioni d'Italia. Quindi è anche giusto riconoscerlo, è un prodotto che tantissimi anni fa, il Moscato d'Asti, era un boom in tutto il mondo, lo è ancora, viene esportato ancora, viene prodotto ancora, però era un po', come posso dire, quello che rappresenta oggi il Prosecco, cioè un fenomeno mondiale di bottiglie, oggi è rimasto, ma come ti dico, in tante regioni italiane si producono degli ottimi moscati e devo dire che sul panettone si sposa in maniera straordinaria. Anch'io quindi molto favorevole. Allora, siccome quel signore dice che siamo in anticipo, io vado oltre e voglio parlare di una forma di panettone che magari è poco conosciuta, del recupero di panettone, perché durante Natale viene sprecato molto, cioè i panettoni vengono tagliati magari a una tavolata, il giorno dopo la gente sazia per il pranzo di Natale e lo buttano. Ecco, invece il panettone è un prodotto straordinario, un dolce straordinario da essere recuperato. E ora, come al mio solito, faccio delle provocazioni. Allora, se rimane il panettone, quello tradizionale, con le uvette e i canditi, che secondo me rimane sempre il migliore, provate a scottarlo magari sul fuoco, su una padella o dovunque volete, a riscaldarlo. E poi magari metteteci una bella fetta di mortadella il giorno dopo. Oppure metteteci una nella zuppa, della zuppa di zucca, provate anche questo. Oppure addirittura, qui arriviamo all'estremo, veramente come ci sono gli sport estremi, c'è il cibo panettone estremo, sì. Col baccalà, provate a mangiare panettone e baccalà. Poi, se mi insultate va bene, però provatelo prima di insultarmi. No, no, infatti io sempre provare, poi insomma ecco. Bisogna essere un po' coraggiosi, ma io gastronauta mi fido. Io ho cominciato ad assaggiare anche i panettoni che stanno arrivando sul mercato, ci sono tantissime novità di panettoni farciti in maniera diversa e ce n'è uno che mi ha colpito in maniera forte, perché sposa due eccellenze, sposa il cioccolato di Modica e un panettone fatto come Dio comanda, ed è fatto da Fiasconaro, questo produttore siciliano che ultimamente addirittura ha dovuto dire in televisione e sui giornali: sono costretto ad andarmene dalla Sicilia per motivi burocratici, vado a lavorare in Piemonte. Ecco, io non voglio commentare questa frase, però voglio dire che Fiasconaro è un innovatore, delle volte fa dei panettoni molto interessanti, e questo, devo dire, mettendo assieme due eccellenze italiane come il cioccolato di Modica e sposando due Sicilie, cioè due veramente chicche della Sicilia, ecco, devo dire che ha il mio grande riconoscimento. Però i panettoni sono tanti, certo. E ne potrei citare mille. Continuo a dire che al sud c'è una grande scoperta di produttori di panettone, ma anche al nord ovviamente continuano a crescere. Io però prego tutti i produttori di panettone di non fare cose strane. Continuate a fare prima di tutto quello tradizionale, perché quello tradizionale è quello che sposa meglio questo, diciamo, mix tra frutta candita, uvette, lievito madre, quindi fatto bene. E soprattutto c'è questa tendenza, che è anche questa una grande sorpresa, è la sorpresa dei pizzaioli, che in diverse parti d'Italia ci sono molti pizzaioli che producono degli ottimi panettoni. Ecco, cari gastronauti che siete in linea, se andate in una pizzeria e vi dicono che hanno fatto il panettone, provate. Perché col forno funziona bene? Col forno da pasta, da pizzeria? Non è che funziona bene il forno. I pizzaioli tutta la settimana, tutto il mese, tutto l'anno usano madre acida, che è la cosa fondamentale per la lievitazione. Mentre i pasticceri, con tutto il rispetto che rimangono i depositari del panettone, la usano non tutti i giorni, magari in molti momenti, in estate per esempio non lo usano. Ecco, invece i pizzaioli la usano tutto l'anno. Allora anche qui ci sono gli ottimi, ci sono i buoni, ci sono quelli sicuramente di minor qualità. Però, come dicevo, ad esempio ci sono due pizzaioli veneti, uno si chiama Bosco e l'altro Pizzeria Itigli, che sono di due paesini del Veneto. Ecco, io ho assaggiato dei panettoni veramente che si sentiva il profumo in bocca, è sicuramente straordinario. Chi volesse invece grandi pezzature, ecco lì bisogna andare da coloro che hanno il forno a legna, e al sud a Grottaglie c'è un produttore che si chiama Lenti, che fa panettone da 3, 5, 10 kg, cotto a forno a legna ovviamente con lievito madre, e quando lo aprite c'è un profumo che irrora diciamo tutta la casa. Che bello, ecco, già solo pensare a una famiglia così numerosa che apre un panettone da 5 kg è poesia, già solo l'idea. È poesia quando tu apri la porta a Natale e senti l'odore del brodo, quindi del sedano, e poi senti quello del panettone. Questo è Natale, cioè questo è Natale, il vero Natale, secondo me, un Natale che, come dire, sposa il cibo, devo dire, che poi vabbè, Natale sono anche altre cose, per carità, però cioè già entrare e sentire questi profumi secondo me riconcilia un po' con il mondo. Potrei parlare ancora di panettoni e dire che anche in Brianza, tu che sei brianzola, sì, ecco, devo dire che la Brianza forse non è al massimo sulla ristorazione, però sulle pasticcerie devo dire chapeau. Perché ci sono 7-8 pasticcerie che producono un panettone veramente di grande eccellenza. E allora voglio fare due o tre nomi: Comi a Missaglia. Questa è quella che conosco meglio. E tu conosci che conosco bene, benissimo. Sei del posto. Poi la boutique del dolce, la boutique del dolce che è Zoia, un altro grandissimo. Poi c'è Cosmo, e poi potrei ancora continuare, però. Ora mi viene in mente la Brianza, magari durante le altre trasmissioni. Senti, andremo verso Natale, piano piano e scoprirò anche la Basilicata. Ah, sì, anche sì, lì perché ci sono grandi panettoni. Ma che meraviglia! Invece a Milano, perché poi a Milano si litiga sempre su qual è il panettone, il vero panettone. Ogni milanese ha la sua idea di vero panettone. Ma sai, io potrei citarti un trio: Cookie, Marchesi, Cova. Quindi ti posso dare questo trio, però poi ce ne sono anche tanti altri minori. Questi forse sono i più conosciuti. Poi ora diciamo che Cova e Marchesi hanno aperto negozi in pieno centro, sono sostenuti da case di moda di grandissima lignaggio, quindi certo, sicuramente sono quelli che vengono più conosciuti. Però mi riprometto questo: nella prossima trasmissione, che magari fra 2 o 3 settimane faremo sul panettone, parlerò di panettoni di mini pasticcerie a Milano. Ah, bene, perché bene. Milano rimane la capitale, e quindi andrò a scovare proprio i piccolini, quelli magari che sono nei quartieri e che il grande pubblico non conosce, e allora cercheremo giustamente di farli conoscere. Poi lo faremo anche a Roma. Perché e poi dovremmo parlare sono anche degli altri dolci di Natale, perché ci certo, sono quelli certo, che invece certo, del partito del Pandoro e di tutti gli altri dolci natalizi. Parleremo del Pandoro, perché io faccio una previsione: quest'anno il Pandoro avrà una grande annata. Mi sento che avrà una grande annata. Ecco, dico subito che non è facile fare un buonissimo Pandoro. È molto difficoltoso, per anni è stato un po' trascurato, si è dato molta attenzione al panettone, ma piano piano vedremo anche di rilanciare il Pandoro. Davide, ti saluto leggendoti il messaggio che è arrivato al 349-238-6666 da Andrea dal Sud Tirolo, che dice: ma quanto pesa il signore che mangia panettone d'agosto? No, Davide Paolini, sai che me lo chiedono in tanti, sai che sono tutti curiosi. No, Davide Paolini è 69 kg. Esatto, è super in linea nonostante sia il gastronauta. Non so come faccia, ma è sempre il motto, in linea. Il motto del gastronauta. Si mangia con la testa e non con la pancia. Oh, si mangia con la testa e non con la pancia. Grazie a Davide Paolini. Allora, al prossimo sabato abbiamo ancora un po' di novità natalizie e non solo, consigli natalizie e non solo. Ci ritroviamo al prossimo sabato del villaggio.